Stava pensando, sorvegliando con mi sesso in New Jersey. E già pensi che fosse una vita buona, ya, buona, ricca, ben cevere. E voi?